Stai ascoltando Radio Onda Rossa e comincia adesso la puntata di Semilla dedicata ai brani di musica latina reinterpretati con beat moderni. E comincio con il produttore musicale greco Bia Kause e la sua reinterpretazione del brano El Manisero, che sarebbe il venditore di noccioline, del musicista cubano Antonio Machin. Buon ascolto. Ascoltiamo ora la canzone El Meccanico, brano del genere musicale cumbia, del colombiano Edmundo Arias, ma è reinterpretato dal DJ tedesco Deila. We'll be right back. Ascoltiamo ora il remix del brano El Cariño di un altro musicista greco, Monetrix. Ascoltiamo ancora cumbia con il remix di Kill Emil, anche lui un musicista greco, del brano Ritmo de Tambo Aca Nosotros della celebre orchestra colombiana La Sonora Dinamita. Gracias. capa de arte vela, descanso sentimental, con el baile de cadera. Se ven casar, ambulando su cintura, como sirena del mar, con estética hermosura. Todos queremos bailar este ritmo tropical, orgullo de mi nación. Questo è un brano e remix del DJ tedesco Tio Changó di un brano del Frente Combiero, uno dei gruppi colombiani più importanti della scena internazionale. Il brano si chiama Boca Chico. Sangre. La historia de Palenque, de Palenque, donde la gente sale a la calle y muestra toda su alegría, Yo canto puya, chalupa, son de sexteto, a veces una cumbia, La cumbia, Y para mí es una fiesta, Anche Konstantinos Kervis, il nome d'arte di Panam Cardoune, un DJ e produttore greco noto per la sua fusione di ritmi latini con beat elettronici. Ascoltiamo il suo brano Ritmo Selvage. Teddy Dread è un DJ e produttore portoghese che combina ritmi brasiliani con elementi elettronici. Il prossimo brano è il suo remix di O Bananeiro del gruppo anni 60 brasiliano Os Incríveis. Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. Eu trago bananas pra vender, bananas de todas as qualidades que vai querer. Olha a banana nananica. Olha a banana mamãe, olha a banana ouro, olha a banana prata, olha a banana da terra, figo São Tomé, olha a banana d'água. Eu sou um menino que precisa de dinheiro, mas pra ganhar de sol a sol, eu tenho que ser bananeiro, pois eu gosto muito de andar sempre na moda. E pro meu amor puro e belo, eu gosto de contar as minhas prosas. Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. É bom comigo até demais, pois vendendo bananas eu também tenho meu cartaz. Pois ninguém diz pra mim que eu sou um pária no mundo. Ninguém diz pra mim: vai trabalhar, vagabundo. E se stai sulla frequenza giusta, quella di Radio Onda Rossa 87.9, e ascoltiamo ora il remix di un altro brano brasiliano, Originas do Samba, e il gruppo, e il brano si chiama Tenha Fé Po Amanhã Uma Lindo Va Nascer, che l'ho pronunciato sicuramente male, abbi fede perché domani spunterà una bella giornata, remixato dai greci Palov e Panama Cardon. Capoeirista pra bater no capoeirista pra bater no seu adversário, ele não precisa encostar o pé, ele deve ter o seu corpo ferrado, manejado, qual pé, você sabe se defender, antes do pé encostar ele ferra. Capoeirista pra bater no nunca tenha medo. Começa a brigar, valeu o garoto, de cabeça. Ora il remix del brano del percussionista inglese cubano Robin Jones, Royal Marca, eseguito dal DJ inglese di origine indiana Raj Gupta. Ora un altro brano del DJ musicista greco Kill Emil e si chiama Por Favor. Turno del messicano DJ Naver con il suo remix del brano Habanero Guajanco. Buena Vista Social Club è il progetto musicale che ha riunito veterani musicisti cubani degli anni 90 e Panama Cardon, il Greco, ha remixato il loro brano Candela. Ascoltiamolo. Il brano del duo francese Ours en Plus e si chiama 1, 2, 3, 4. E ora utilizzando lo antaño e lo moderno, empezando de esta manera. Way B sono due DJ francesi che assieme a Tour de Ménager hanno creato questo remix che si chiama Sunset. Town è un altro musicista francese che fa remix di jazz, soul, musica latina in chiave trip hop, e il suo brano Instant Playa, nato con i campioni presi da Tito Puente e la sua orchestra, e il brano si chiama Cuban Nightingale. Finire vi metto un altro brano del francese Orsen Plus che si chiama Chaman.